sei come una lucertola, tutto il giorno al sole, sulla sabbia che brucia, nell'odore del mar. E come una lucertola, t'addormenti al sole e fai finta di niente se ti vengo a baciar. Soltanto quando batte mezzanotte, la bianca luna bacia il mar. Ti lasci dolcemente accarezzare e non dici mai di no. Sei come una lucertola, tutto il giorno al sole, sulla sabbia che brucia, nell'odore del mar. Ti vengo a baciar.